C'è un altro pronostico? Sì. Il Milan vince il derby 2-1, gol di Balotelli. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. I start this tournament like 1 month ago. I take a big decision on my life, and this is the way I would like to say goodbye to tennis. Fabio Aru, il cavaliere dei quattro mori, ha matato il toro, ha matato il Moulin Rouge. Riccardo, accompagnami Fabio, perché aio, Fabio Aru vince aio, la Vuelta a Spagna. Aio, aio. Caduta, attenzione, no. Di una Yamaha questa, cos'è? Chi è? Cos'è? Lorenzo! Incredibile! No! Lorenzo! No, Lorenzo! Lorenzo in terra! Attenzione, mannaggia, mannaggia! Mannaggia, mannaggia! Blocco forte di Cusine per Marco Bellinelli, c'è spazio! Scattato di Cardi, Guerin accelera, palla sul sinistro, Guerin parte il tiro, rete, Guerin, tre gol, Inter in vantaggio. A parte il fatto che ormai è chiaro, sono sul mercato per quanto riguarda i pronostici, perché non ne azzecco uno, quindi possiamo tranquillamente metterci in contatto. Io ringrazio Giorgio De Luca, Giovanni Melchiori e Pietro Lacorte per questo meraviglioso effetto sonoro del più bel giro del mondo in 50 ore sportivo, naturalmente, che io riesca a ricordare. Partito da New York con la vittoria di Flavia Pennetta nel derby italiano, e credo che il derby italiano sia stato il più grande risultato sportivo, poi il ritiro della Pennetta che adesso vogliono convincere a far la porta bandiera a Rio, ma questo, di questo parleremo, avremo modo di parlarne. Poi Fabio Aru, re di Spagna, con il mantello rosso a Madrid, poi Misano, dove più per fortuna che per bravura stavolta Valentino Rossi riesce ad incrementare il vantaggio mondiale a 23 punti su Jorge Lorenzo. Poi Lille, dove l'Italia del basket ha asfaltato Israele, va verso i quarti di finale dove giocheremo con la Lituania, e notizia di oggi che tutti stavamo aspettando: per Bargnani niente di serio, un risentimento al polpaccio, sarà regolarmente in campo contro la Lituania. Poi Milano, il derby dove è calato il sipario su questo meraviglioso giro del mondo. Prima però di assistere alla finale degli US Open, dove Djokovic ha battuto Federer in 4 set conquistando il decimo slam. Poi c'è chi ci ricorda, già via SMS: mi dispiace che non siete ricordati di citare Giorgio Calcaterra, arrivato terzo nei mondiali di corsa su strada. Lo facciamo subito. Le ragazze della ginnastica ritmica, campione del mondo, specialità 5 nastri. E se non bastasse, pesca al colpo, Italia campione del mondo. Non ce la faccio più. Al di là degli interessi di partito calcistici, tutto è andato per il verso giusto. Come dicevamo, molto per bravura, un po' per amore, un po' per fortuna. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, ciao. Beh, meraviglia, insomma, meraviglia assoluta. Devo dire che hai sbagliato un sacco di pronostici, però... Ma io lo faccio apposta. Quando è... No, aspetta, aspetta, aspetta. Sto per dire una cosa pro Genta. Però venerdì un po' te la sentivi, perché avevi parlato ovviamente di questa possibile epifania per lo sport italiano, e devo dire che tutto è andato ancora meglio di quello che si poteva immaginare, perché nel frattempo l'Italia del basket è andata lontanissima, il tennis ci ha regalato una gioia incredibile, Aru ha fatto quello che doveva fare, e, insomma, mi sembra... A Valentino Rossi è andata bene a Misano, davanti ai 100.000 di Misano. Nella discesa dal podio per una gara, ma alla fine è stato forse meglio che vincere da un punto di vista utilitaristico. Insomma, io credo che che sia bello essere italiani, banalmente. Cioè, mi sento un po' rammollito con dei sentimenti così un po' banali, ma che non ho nessuna paura a esprimere. Cioè, secondo me la bellezza di questo weekend, l'orgoglio che ci deve dare, la felicità che ci deve dare, la spinta che ci deve dare nel sentirci fieri e orgogliosi di appartenere a questa nazione, a questo popolo, io me la sento addosso. Anch'io, tantissimo, e l'ho detto l'altro giorno, mi piacerebbe poter descrivere a parole con le frasi queste emozioni, ma l'abbiamo fatto benissimo nella nostra copertina. Poi dicevamo, quanto agli interessi di partito, quelli calcistici, il sipario l'ha fatto scendere l'Inter, l'ha fatto scendere Guarin, quelli del calcio rimandano comunque ad alcune importanti domande in questo weekend, che è stato tutt'altro che banale pure. Giusto fischiare alla Juventus 96 giorni dopo una finale di Champions League? L'Inter vale lo scudetto? Balotelli può stare in panchina al Milan? Sarri durerà a lungo a Napoli? Abbiamo un sacco di argomenti, a partire da un derby in cui il Milan, secondo me, ha giocato meglio dell'Inter nel primo tempo, Pierluigi. Poi ho avuto questa sensazione, non so se l'hai avuta anche tu, che il gol di Guarin abbia spaccato in due anche tatticamente la partita, con un centrocampo che si è aperto come il Mar Rosso, fino a lì ordinato il Milan, guidato da Montolivo, con due mezzali come Kučka, molto bene primo tempo, e come Bonaventura un po' fuori ruolo, onde inesistente, poi lì la partita si è spaccata, ma è stata in fondo una partita bella e interessante. Ma assolutamente, guarda, io proprio la sensazione di questa spaccatura non ce l'ho avuta, però ti dico la verità, ho avuto invece la sensazione di una partita equilibrata, che chiaramente poteva girare anche in maniera molto diversa, però appunto poi hegelianamente, se le cose succedono, un motivo ci sarà. Cioè, se l'Inter fa tre giornate di campionato rischiando di non vincere con l'Atalanta e trovando il gol all'ultimo secondo, certo, rischiando di non vincere contro il Carpi e vincendo comunque il derby, cioè comunque è un dato, e ieri c'era Sacchi che diceva, non mi ricordo a proposito di che cosa, forse proprio a proposito della stessa Inter, che noi spesso attribuiamo alla fortuna un valore che non è fortuna. Cioè, se le cose succedono razionalmente è perché i protagonisti le fanno succedere, quindi secondo me è un dato, e questo primato dell'Inter è molto interessante, alla luce anche del fatto che non ha le coppe. Detto questo, la partita di ieri poteva finire con un risultato diverso, probabilmente il pareggio era il risultato più giusto. Balotelli, se vuole parliamo, è entrato bene, alla fine dei tanti Mr. B assenti ieri, giustificati per carità, in sponda Milan a San Siro, il Mr. B che invece non ti aspetti è stato Balotelli, che ha fatto veramente un bel rientro, e poi come sempre la differenza nel calcio la fanno i centimetri, no? Palo dentro, palo fuori, e quindi questo della partita secca sappiamo che è decisivo. Questione di dettagli. Mai come oggi invito tutti gli ascoltatori, li convoco tutti, 800240024, adesso abbiamo il traffico, poi torniamo a parlare di tutti questi temi, a cominciare dal derby. Viene al club, eh? No, non al night club, al nostro club. Vengo perché sicuramente dopo succederà qualcos'altro. scherzo. Vabbè, sei gentilissimo, tutte le nostre mogli a casa saranno felici di quello che hai detto, finiamo troppo tardi. Stavo scherzando. Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Tutti convocati. È presto, però se diciamo la parola scudetto, qual è la reazione? Ma no, ma è quello che ho detto all'inizio, è quello che ho detto domenica scorsa. Io credo che le grandi squadre debbano partire col massimo dell'obiettivo, poi per raggiungerlo devi lavorare tantissimo, devi migliorare, devi essere fortunato, le cose devono andare nel verso giusto, quindi ci sono altre squadre più attrezzate di noi per vincere, però noi siamo l'Inter, quindi dobbiamo fare il massimo e poi vedremo quello che accadrà. Quando Milan gioca male è merito degli avversari, quando Milan gioca bene è demerito degli avversari, non ho capito bene questa cosa qua. No, ho detto che con l'Inter di oggi, che diceva che prima Mancini, con una squadra che è abbastanza lunga, vi ha permesso di giocare tante volte contro squadre piccole, è più complicato, difficile. Visto anche oggi il Napoli ha fatto magari fatica. Abbiamo allungato noi la squadra con i movimenti dei nostri attaccanti. Può essere, sì, sicuramente, ma io volevo darti anche una scusante, tra virgolette, che la partita con Ma io non voglio le scuse, io guardo le cose reali. Mancini, Mihajlovic, dopo il derby, Pierluigi Pardo, abbiamo 5 minuti di Paolo Bonolis, che saluto e ringrazio. Ah, ciao Paolo. Ciao ragazzi, ciao Pier. Come sei... stai? Bene, bene, mi sa, no? Bene, bene, rientrato ora da Milano. Senti, bel derby Paolo, confuso, combattuto tra due squadre embrionali, quasi ingenue in alcuni tratti, come ad esempio nell'avvio dell'azione del gol dell'Inter, ma finalmente un derby importante. Sarà che era la terza giornata, senza un dubbio, derby importante. Senza dubbio questo, cioè è ovvio che la partita era un derby importante per tutte e due le squadre, da che il Milan aveva bisogno di incamerare certezze a fronte di una nuova gestione della squadra, della società, quindi della panchina eccetera, e l'Inter altrettanto di aggiornare le conferme che erano venute dalle prime due giornate a livello di risultati e di grinta e di volontà di vincere, e quindi era un derby bilanciatissimo, un paio di occasioni importanti per il Milan in apertura ce l'hanno fatta fare addosso a tutti i nerazzurri. E poi dopo è stata una partita abbastanza equilibrata, dove come in ogni partita equilibrata è stata una giocata a fare la differenza. Sì, ha ragione Paolo Bonolis, no Pardo? Sì, guarda, a me quello che impressiona dell'Inter di quest'anno è la fisicità. Mi sembra, lo vedo sui calci d'angolo, le situazioni di calcio piazzato, mi sembra una squadra in questo veramente manciniana della prima Inter di Mancini. E questo secondo me è un segnale che nel calcio moderno è importantissimo. Poi l'assenza delle coppe può rappresentare una soluzione certamente importante, e le avversarie che si stanno facendo del male da sole, soprattutto Juve e Napoli, potrebbero aiutare. Fa benissimo Mancini ovviamente a stemperare gli entusiasmi, però che qualcosa sia cambiato insomma ce ne siamo accorti, ed è cambiato secondo me negli ultimi giorni di mercato, perché l'Inter ha fatto un mercato complicatissimo, ha fatto e disfatto continuamente, a un certo punto non si vedeva la luce, non si vedeva il filo, però il filo alla fine è arrivato, e molto ha a che fare anche secondo me con Jovetic. Sì Paolo, Mancini sta usando e ha usato tutto il suo sex appeal calcistico nella costruzione di questa Inter, diciamocela. Sicuramente Mancini ha collaborato in un sex appeal che già la società Inter ha a livello internazionale. Mancini ha collaborato a incrementare tutto questo con la sua storia, con la sua capacità. E adesso l'Inter ha cambiato effettivamente, come dice il buon Pardo, ha cambiato quello che precedentemente era più leggero, era più istrionico, affidato alle magie ancora chiaramente giovanili, adolescenziali calcisticamente parlando di Kovacic, o quelle un po' più professionali di Hernanes. Ha fatto una squadra robusta, tosta, una squadra fra virgolette, se si può dire, arrabbiata fisicamente, che però sposta il suo asse di fantasia a 10-15 metri dalla porta avversaria. Quindi adesso si tratta di giocarsi le carte della fantasia, cioè di quello che ti permette di scavallare il muro contro muro o contro squadre equivalenti, con le giocate fantasiose di sotto porta avversaria praticamente, perché il resto della squadra per quello che riguarda l'Inter è confezionata su forza fisica e schemi abbastanza elementari ma robusti. Davanti vediamo che succede, davanti Jovetic, Perisic, Ljajic devono quanto più possibile scartare le caramelle dell'imprevedibilità. Sì, scartare le caramelle. E considera che non abbiamo ancora visto Icardi, nel senso che poi alla fine il margine di crescita dell'Inter è quello secondo me. Ieri Icardi su un cross di Santon, se non sbaglio, sì, è andato giù di testa, che era una grazia di Dio. Sì, purtroppo quel gol non è vero. Insomma, non ha preso la porta, ma questo ti dà la stura delle capacità, giocatore, certo, potenziali tecniche del ragazzino centravanti. Poi ha sbagliato un gol a fine primo tempo, perché quello ci ha messo un piede che non so quanto porti di piede il portiere spagnolo, perché lo c'aveva il 52, esatto, perché è riuscito proprio con quel piedone gigantesco a fermare il diagonale. Ma insomma Icardi sì, certo, deve migliorare, come devono migliorare tutti poi, voglio dire, non è che solamente lui. È una squadra in assoluta fase d'assemblamento di conoscenza tecnica, in embrione, esatto, è un prodotto in fieri netto, e vediamo il Mancio come riuscirà a renderlo al meglio. Senti Paolo Bonolis, un'ultima cosa, tra gli spaventi hai citato quelli del primo tempo, non hai citato quelli finali di Balotelli, lapsus o caso o dimenticanza? No, tutt'altro, devo dire che Balotelli quando è entrato ha dato filo da torcere a quelle che erano le potenziali certezze dei tre punti di tutti noi. Perché? Perché Mario ha il tiro. Mario al tiro non c'è niente da fare, ce l'ha sempre avuto. Se poi al tiro aggiungesse altre peculiarità, e mi auguro possa aggiungerle nel corso di questa stagione e degli anni a venire, anche la nazionale avrebbe fatto un grande acquisto, insomma. Buon primato e buon lavoro, Paolo Bonolis. Ciao Paolo. Buon primato. Ciao, presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene. Sì. Mi sembra insomma analisi lucida, ovviamente. Molto lucida, certo. Ovviamente entusiasta, non potrebbe essere altrimenti, anche perché l'Inter non è che viene da anni facili, quindi c'è anche bisogno di ritrovare subito un certo tipo di entusiasmo, però bene bene, come diceva Stramaccioni, mi sembra. Io credo che la partita di ieri per tutte e due abbia rappresentato un passo avanti, nel senso. Sono d'accordo. Infatti Mihajlović, la rabbia di Mihajlović, io l'ho capita, Sì, sì, ma ieri era molto arrabbiato Mihajlović. Io avevo commentato una per Diretta Premium, l'altra Milan-Empoli live, le due partite di Milan e Inter della seconda giornata, quindi ce l'ho presentissime davanti. Ieri secondo me è stata una partita nettamente superiore dal punto di vista dell'intensità e anche della qualità, quindi secondo me ci sono segnali positivi. Certo, poi sai, la classifica, soprattutto all'inizio, vincere delle partite anche quando magari non meriti tantissimo, come era successo per esempio all'Inter contro l'Atalanta, ti dà una grande mano. Un adesso il Milan sia un po' sotto pressione è evidente, adesso ci sono Palermo e Udinese, e Milan deve fare 6 punti, non è che c'è molto da girarci attorno. Intanto do una notizia di cronaca che farà piangere ancora di più i tifosi della Juventus, perché Marchisio starà fuori un mese. Gli esami hanno evidenziato uno stiramento di primo grado al limite del secondo all'adduttore della coscia destra, potrebbe tornare per Inter-Juventus del 18 di ottobre, quindi piove sul bagnato. Domani la Juve gioca a Manchester, il momento è difficilissimo. Mario Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. E grazie di avermi convocato tutti e due. Grazie a lei. Allora, da interista, ed è a nome di tutti gli interisti devoti ormai a Genta per i suoi pronostici lungimiranti, quello prima di tutto. Ti perdonano niente. Hanno ragione, ma continuerò a farli. Grazie. Per il vostro godimento. Grazie. Due cose sull'Inter: il centrocampo e soprattutto Felipe Melo ieri, sì, che eravamo tutti un po' scettici, invece ha fatto secondo me una gran partita. Bravo. Ha fatto una gran partita. Bravo. E due, abbiamo vinto questo derby, ma mai sarà come vincerlo in Cina, un amichevole di luglio, così insomma, un po' queste vittorie di luglio che troppo. Questi sono coriandoli, naturalmente. Però sul discorso Felipe Melo, tra l'altro, ha parlato anche Moratti, impressionato da Melo. Toir ha fatto un gran mercato, si può pensare allo scudetto, ha detto l'ex presidente dell'Inter. In effetti, Pier, in tanti, me compreso, abbiamo spernacchiato questo lungo inseguimento dell'Inter a Felipe Melo, però ieri si è visto cosa vuol dire avere un giocatore di personalità nel cuore del centrocampo. L'equivoco di Felipe Melo alla Juve, quella drammatica stagione, fu il prezzo. Cioè, Felipe Melo venne preso per 25 milioni. I due acquisti di quell'estate furono Diego e Felipe Melo. La Juve sembrava favorita per il titolo e arrivò invece settima. Ed era quello il punto, cioè che a Felipe Melo veniva chiesto un tipo di lavoro e c'erano delle aspettative come se dovesse essere Jovetic. Quello Jovetic attuale, faccio per dirti, no? Giocatore che ti cambia il grande trequartista. Non lo è. È un mediano di grande sostanza, che fa pienamente il suo lavoro, che qualche squalifica se la beccherà e qualche cartellino se lo beccherà, perché fa parte del suo style of play, certo, però certamente. Assolutamente è un giocatore che può essere utile. Quando parlavo della crescita fisica dell'Inter, pensavo a Kondogbia, insomma, a me sembra che ci siano dei segnali incoraggianti. Indubbiamente è presto, però l'Inter secondo me quest'anno può fare molto bene. Io credo che l'obiettivo Champions League, senza allargarsi troppo, l'obiettivo fra le prime tre sia alla portata, soprattutto se le altre che dovrebbero essere più o meno in quella categoria lì faticano. Andiamo con la borsa e poi torniamo insieme. 800240024, numero verde. Loro escono, guarda che mi fanno il contropiede su quella palla che dobbiamo prendere noi. Ho paura, gol. Ma dannazione, ragazzi. Nazione. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Gentile, cambio accettato da Fischer con tre falli. Gentile, 4 secondi, deve forzare, mamma mia! Deve forzare, mamma mia! Maiare la riete, ancora lui! Maiare la riete, ancora lui! Dietro la schiena, Bellinelli sontuoso, alza la parabola, gli esce e segue. Oh, famo strano! Anche a San Giovanni in persiceto! Rovesciata di Marco Bellinelli! Vola via l'Italia! Attacca Hackett, riapre proprio per Aradori, extra pass per Bellinelli che attacca molto bene e siamo al Brasile del 70, dentro, fuori, destra, sinistra. Blocco forte di Cusin per Marco Bellinelli, c'è spazio per il tiro da tre. Di 30 punti, accede ai quarti di finale. Marco Bellinelli! Morale così è andata ieri a Lille. Francesco da Milano, Emilio da Benevento, state con noi. Pierluigi Pardo è collegato, Carmelo Presti Simone che sta seguendo gli europei pure. Geolocalizzati, Carmelo, dove sei? Che stai facendo? Con chi sei? Allora Carlo, buon pomeriggio, ben trovati. Dove sono? Sono alla Grand Place di Lille e con Nando Gentile. Scusate, è proprio Nando Gentile. Abbiamo sentito prima il racconto appunto della performance, delle penetrazioni, delle giocate del figlio Alessandro, ma siamo qui con Nando, Carlo. Sì, Nando, sarebbe stupido, fuorviante, falso dire che ieri è nata una stella, ma nella nazionale dei... Era giornata. Ciao Nando. Nella nazionale dei Big Four il posto di Datome l'avrà preso il tuo figlioletto, giusto? Ma diciamo che non era la squadra dei giocatori NBA, ma era la nazionale italiana, quindi indossare la maglia azzurra non dipende da chi giochi in America, chi giochi in Italia. Indossare la maglia azzurra è già una grande cosa per tutti i nostri ragazzi, quindi qui si gioca per la maglia azzurra, non per i Big Four, Big Three. Qui si gioca per vincere, per fare qualcosa di importante, per cercare di rialzare un po' questa nostra pallacanestro. E di massima ci stiamo riuscendo. Pierluigi Pardo, una domanda per Nando Gentile. Ma la domanda è la sensazione che ha fra scaramanzia e razionalità, nel senso della partita di ieri e poi anche le notizie incoraggianti che arrivano oggi fortunatamente sul... Per Bagnani. Sì, per Bagnani, dal punto di vista dell'infortunio, autorizzano un entusiasmo di un certo tipo, però insomma bisogna stare coi piedi per terra. Ma lui che sensazioni ha all'interno della squadra, che sensazioni ci sono? Ma sì, c'è grande euforia, grande voglia di andare avanti, hanno visto che si può giocare con tutti, però chiaramente c'era grande paura ieri di questa Israele, che è una squadra un po' particolare, un po' strana, una squadra che prediligeva correre molto. Diciamo che la partita è stata preparata molto bene, li abbiamo contenuti molto bene, hanno fatto solo 50 punti, una squadra che aveva fatto grandi cose nel proprio girone. Ora ci tocca la Lituania, la squadra fisica, veramente un accoppiamento non facile, però ci proviamo. Soprattutto Carlo e Pierluigi, nell'Ital Basket sono venuti fuori a Berlino nel girone di qualificazione il cuore e gli attributi. Nando, invece qui a Lille la saggezza e l'autorevolezza, la padronanza, la capacità di gestione, mi sembra che sia emersa. Quelli li abbiamo visti anche contro la Spagna, in dosi massicce. Sì, sicuramente dopo un inizio così da nazionale è venuta fuori un po' lo spirito della squadra, questa grande famiglia che si è formata, non facile perché chiaramente non è che giocano insieme da tanti anni, si conoscono ma non hanno mai giocato insieme, e nelle difficoltà devo dire a turno sono venuti fuori i nostri giocatori con il gruppo, con la giocata singola dei fuoriclasse, e chiaramente ora la cosa importante è rimanere, come si diceva prima, coi piedi a terra, grande euforia, però bisogna essere consci che giochiamo contro una grande squadra e sai, passare quest'altro turno significa entrare nelle prime quattro in Europa, cosa non male. E Carlo, Alessandro poi se la vedrà adesso mercoledì nei quarti di finale contro la Lituania alle 21 contro un certo Maciulis che in Italia conosciamo perché ha vestito le canotte sia di Milano che di Siena, ma non giocava come abbiamo visto ieri, non ha mai giocato come abbiamo visto ieri, pazzesco. Sì, e ora sicuramente ha fatto delle giocate incredibili, ma diciamo che lì è un po' tutta la squadra, grande squadra, atleti, giocatori di grande esperienza, quindi non sarà facile. Ora la cosa importante è che Bargnani sta bene, che può tornare in campo, perché per noi è fondamentale. Nando, un'ultima cosa, la sensazione mia, visti gli europei da qua, viste le partite da qua, è che andiamo incontro ad ogni gara quasi senza paura. È una sensazione abbastanza nuova che deriva, secondo me, dal fatto che abbiamo una squadra che non ha grandi problemi a fare canestro. Sì, abbiamo sicuramente talento offensivo da vendere. La cosa importante in queste partite, questi scontri dove chi perde va a casa, la cosa importante è non prendere canestro, cosa che ieri la nazionale ha fatto molto bene, devo dire una partita preparata molto bene dallo staff, e la squadra si è messa lì a difendere. Lo scontro dell'uno contro uno è fondamentale, e ora ripeto, come hai detto tu, il talento offensivo c'è. Ora contro la Lituania bisogna stare attenti, che anche loro sono molto fisici, bisogna evitare palle perse, cosa è fatto bene anche ieri con la nazionale, e continuare a fare canestro, cosa che noi fino ad oggi abbiamo fatto. Carlo, un'ultima cosa, se mi permetti, sì. Con la gran passe con Nando c'è anche Maria Vittoria, che è la moglie di Nando, naturalmente la mamma di Alessandro. Esatto, e Alessandro ieri a fine partita, dopo la sua straordinaria performance, 27 punti, 5 rimbalzi, 4 assist, ha chiamato i genitori giù nel parterre e ha voluto dare un bacio a tutti e due, a Nando, a papà Nando e a mamma Maria Vittoria. Mi sembra un gesto bellissimo da parte di questo ragazzo nato a Maddaloni, scuola Artus Maddaloni, sempre accompagnato, seguito, sostenuto dalla mamma e dal papà, che naturalmente sono orgogliosi di avere questi due ragazzi, non solo Alessandro, ma ricordiamo anche Stefano. Anche Stefano, certo. Un grande giocatore, certo, assolutamente. Certo. Sai, non si diventa campioni per caso, c'è sempre qualcosa dietro. Stesso discorso vale per Gallinari e la sua famiglia. Carmelo Presti Simone, Nando Gentile, grazie davvero, ci sentiamo nei prossimi giorni. Nei prossimi grazie giorni. A voi. Speriamo per qualche altro giorno, per diversi giorni. Speriamo. Fino alla fine. No, lasciami perdere però adesso. Adesso lasciami perdere. No, lo facciamo mercoledì. Pronostico o famo mercoledì. Senti, torniamo agli ascoltatori. Emilio da Benevento, Francesco da Milano. Ma prima, cosa ha detto ieri alla fine della partita il signor Felipe Melo? Balotelli è troppo forte, è un campione, e quindi dobbiamo andare sempre così, calcio così. Dai. Divertente, carino, insomma, secondo me era affettuoso, era virile, fa parte della realtà dello sport, insomma, l'agonismo, le scintille del rispetto della correttezza, no? E della realtà, però l'elemento fisico fa parte del gioco, certo, e anche lo scherzo che c'è stato tra i due, anche l'uscita di Balotelli dal campo mostrando la maglia del Milan alla curva dell'Inter. Posso dirti una cosa, che questa uscita, guarda, io ti dico la verità, premesso che siamo all'inizio, meglio risparmiarsela. No, invece ti dico il contrario. È chiaro che da un punto di vista così, soprattutto uno che c'ha il curriculum come il suo, no? qualsiasi piccola cosa può essere vista come, ecco, il solito Balotelli. E devo dirti però che le uscite, le balotellate delle ultime ore sono state tutte balotellate un po' da leader. E quindi secondo me, poi soprattutto mi è piaciuto come è entrato in campo, cioè mi è piaciuto il contributo che ha dato alla squadra, per cui insomma a me ieri sicuramente non ha il carattere di Avie Sanetti o non lo so di Pessotto, e non ce l'avrà mai, però devo dirti che le cose che ha fatto ieri, secondo me, al di là del fatto che poi magari i tifosi dell'Inter possono non apprezzare, però dal punto di vista della sua squadra, secondo me ha fatto delle cose che denotano personalità. Ora il problema di Balotelli lo sappiamo, è la continuità, cioè è riuscire per la prima volta, perché sarebbe la prima volta nella sua vita, nella sua carriera, a fare 30 partite da giocatore vero, non 4 lampi e 20 pallotellate, due volte bene e 5 volte male, o anche 5 volte bene e 5 volte male. È diventare un leader, un riferimento tecnico all'interno della squadra, uno su cui puoi contare, certo, nelle 38 partite, certo. Questa rimane la sfida. Ci ha provato 2 anni fa, forse l'unica esperienza, l'unico momento nel quale l'ha fatto è stato i primi 6 mesi al Milan, quando è arrivato, che ha fatto invece molto bene. O forse possiamo dire la necessità di essere normale. Sì. Io non accosto volentieri la parola leadership al cognome Balotelli, perché secondo me non può essere né leader tecnico né leader emotivo, però abbiamo bisogno di normalità e di continuità da questo giocatore. Anche se lì riferimento a Berlinguer, insomma una storia diversa, il libro di Francesco Piccolo, fra l'altro grande appassionato di basket, casertano, quindi insomma un momento molto si collega molto al discorso che facevamo prima con Nando Gentile, il desiderio di essere come tutti, lì è chiaramente qualcosa di diverso, no? Chi ha letto il libro sa benissimo che si parla di politica e si parla di... Però ecco, il desiderio di essere come tutti, di essere un giocatore, no? Un giocatore di calcio, sì. Che partecipa alla sua squadra, che soffre con i compagni, che esulta se ci sono dei gol. Ieri a un certo punto, stavo vedendo la partita qui con Ciro Ferrara, dopo una sua giocata ha sorriso all'82esimo e Ciro fa, però lì sta sorriso, guarda questa immagine, prendiamola, facciamola. Nel senso che quello che dovrebbe essere normale, no? Nel caso di Balotelli per troppo tempo è stato invece un'eccezione. Allora, adesso andiamo col traffico, subito dopo, lo prometto, immediatamente dopo Emilio da Benevento, che ringrazio per la pazienza. L'invito è a venire qui nel club da noi, quando magari giochi un sabato, quando non finisce una partita così tardi. Se avete qualcosa da bere, perché vedo che c'è un tavolo vuoto, non si beve niente. Tutti convocati. Convocati. Arrivano conferme, ma era purtroppo già ufficiale. Claudio Marchisio starà fuori 1 mese dal campo ed è una brutta botta per la Juventus, lesione di primo e secondo grado all'adduttore destro. Emilio, buongiorno, grazie. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Comunque sono di Foggia. Ah, di Foggia, ma ha scritto Benevento, l'ho fatto aspettare 1 ora e mezza, poi oppure sbagliato la città. Mi perdoni. No, niente. Allora mi trovo a Cremona, ieri ero allo stadio. Voglio fare i complimenti a Mancini, perché ieri dopo il primo tempo Murillo doveva essere cambiato, invece ha avuto coraggio, l'ha lasciato e abbiamo visto un bel centrale, ha giocato molto bene. E poi la seconda considerazione, non so se siete d'accordo, per me ieri non doveva giocare Perisic, doveva giocare Brozovic e avremmo visto un Inter più quadrata, sicuramente finiva diversamente, qualche cosa in più. Ma su Perisic possiamo aprire una lunga discussione. Ieri secondo me ha giocato fuori ruolo, è un eccellente giocatore, mi è sembrato un po' spaesato, ma questo è del tutto normale, è atterrato nell'ambiente Inter da pochi giorni, si è trovato nel mezzo di un derby. Quanto a Murillo, a me Pierre sembra un gran giocatore, rapidissimo nei recuperi. Sì, anche se ha fatto degli errori anche nel primo pesanti. Tempo, nel primo tempo certamente. Ma allora io su Perisic è un giocatore non facilissimo da inquadrare, nel senso dal punto di vista tattico, quindi posso essere d'accordo sul fatto che con Brozovic certamente hai una soluzione un po' più naturale, però io ho la sensazione che l'Inter migliore sia quella che abbiamo visto ieri, cioè l'Inter migliore debba nascere dal tentativo, cioè con tutto rispetto per Brozovic, però il tentativo di Mancini per crescere, per aumentare il livello deve essere quello della squadra vista ieri sera. Poi deve trovare gli equilibri, deve trovare un modo di stare in campo insieme e di soffrire il meno possibile, ma credo che passi tutto da lì, passi tutto da riuscire a far coesistere il talento di Jovetic, Perisic e Icardi. Sì. Con Felipe Melo e con Dobbiak, che da questo punto di vista sono 2 giocatori importantissimi per assicurare l'equilibrio in mezzo al campo. Brozovic mi sembra un giocatore che può entrare nelle rotazioni, Guarin sappiamo che ha una storia, tra l'altro stasera sarà uno degli ospiti di Kitaka, l'eterno partente, hai acquistato l'eterno partente, capito? Cioè giocatore che è stato 1000 volte sul mercato anche pochi giorni fa, anche prima della fine del mercato, ti ricordi c'era un'ipotesi Roma, c'era stato un famoso scambio bloccato ai tifosi con Vucinic, è un giocatore che, ed è un fedelissimo di Mancini che ieri ha risolto il derby, paradossalmente ha risolto uno della vecchia guardia, no? Nell'Inter dei nuovi. Sì, sì. Però insomma io penso che questa Inter qui che abbiamo visto ieri sera sia il progetto più alto che ha a disposizione Mancini e stia lavorando su questo. Io sono d'accordo. Leonardo, provincia di Trapani, poi vi faccio sentire quelli che a nostro sindacabilissimo giudizio sono stati i tre gol più belli della giornata. Ma prima Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Io volevo parlare un attimo di Juventus per fare due domande. Una, avete visto meglio Hernanes dietro le punte o come vice Virgo, diciamo così? E poi una cosa che non riesco a capire, perché non si può far giocare un quarto d'ora a Zaza visto le difficoltà della Juve per fare gol? No, la sentiamo abbastanza male, ma abbiamo capito il senso. Hernanes trequartista o Hernanes alla Pirlo? Io dico trequartista. Quanto a Zaza, anche oggi Allegri più che mai sulla graticola ha promesso cambiamenti, io credo più Mandzukic. Pier? Io dico che per caratteristiche chiaramente Hernanes è più trequartista che centrale di centrocampo davanti alla difesa, può fare anche l'intermedio, però per la situazione che ha in questo momento la Juve, un po' di qualità per cominciare la manovra e quindi un Hernanes davanti alla difesa, credo che anche qui, un po' come per Mancini, sia i lavori in corso, sia un'idea molto interessante nella testa di Allegri. Come caratteristiche in assoluto, cioè è ovvio che è un adattamento che gli chiedi, però ci penso, lo può fare? Secondo me sì, non è mobilissimo, ma se l'ha fatto Pirlo lo può fare anche lui tranquillamente. I piedi ce lo devi inventare in un momento di difficoltà. Sì, te lo devi inventare, perché secondo me in questo momento la Juve ha proprio bisogno di qualità lì, mentre sulla tre quarti secondo me puoi trovare altre soluzioni, puoi trovare Pereira, puoi trovare un cambio di modulo, quello che si è visto nella fine con difesa a tre. Sì. E quadrato opposto ad Alexandro, quindi giocare con due esterni. Secondo me ciò di cui ha maledettamente bisogno in questo momento la Juve è il regista, l'uomo d'ordine, e deve essere Hernanes. Allora, i tre gol più belli della giornata, sentiamo se Pardo è d'accordo. Il primo è quello di Piniglia. Maxi Morales, occhio alla sovrapposizione, il cross è buono, palla in mezzo, si coordina per la rovesciata e la mette all'angolino, un gol capolavoro, esplode Maurizio Piniglia, e 1-0. Secondo gradino del podio, Magnanelli. Calcio di punizione battuto, attenzione alla conclusione da fuori, e palla che va all'angolino, Magnanelli, niente da fare per il portiere bergamasco, Sportiello. Medaglia di bronzo per quello che per me è stato il migliore del Napoli, Lorenzino Insigne. Insigne! Che gol per Insigne, il pareggio del Napoli al settimo minuto, la reazione firmata Insigne. Abbiamo tolto, Pierluigi, il gol di, cioè non abbiamo messo in classifica il gol di Guarin, di cui abbiamo parlato fin troppo. Sei d'accordo? Primo Piniglia, secondo Magnanelli, terzo Insigne. Sono tutti e tre molto belli, è molto bello anche il gol di Guarin, quindi sì, sono d'accordo, dai, sono d'accordo. Vediamo stasera a Tiki Taka se salta fuori qualcosa di nuovo. C'è il mondo stasera a Tiki Taka. Potevo immaginarlo. Dimmi. C'è Guarin, c'è Balzaretti, c'è Diego Abbadantuono, c'è un'intervista doppia Montero Pessotto, c'è un collegamento col presidente il consiglio Renzi per parlare di Pennetta e polemiche. E c'è il signor Cruciani, poi Pughini, Brienza, Barriales, Satta, ma che te lo dico a fare, mi sono pure dimenticato qualcuno, però no, ti ho detto Balzaretti, sì. Beh, ma tanto domani abbiamo modo di parlarne domani, domani da Manchester, collegati da domani Manchester. Domani da Manchester con Pierluigi Pardo. Intanto noi ci fermiamo per il giornale radio, subito dopo torniamo per parlare con Piero della provincia di Torino, lei stia lì. Poi per parlare di Aru, per parlare di Valentino Rossi, per tornare a parlare di calcio, insomma, gli argomenti mi sembra che oggi ce ne siano parecchi, no? Che dite? Aspettateci, ne vale la pena. Ti scriveranno, ti chiameranno, e ti sento anche a Radio 24 a tutti i convocati. Tutti convocati. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, la pecora nera di Sara Tardelli e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Convocati. Allora, uno dei temi calcistici che ci porteremo dietro per tutta la settimana e magari oltre, il Napoli, quanto credito ha ancora Maurizio Sarri dopo tre pareggi, dopo tutti questi gol incassati, dopo non aver alla fine mai convinto per una partita intera? Napoli in ritardo, Sarri. Ma sul primo gol abbiamo fatto un errore noi, sul secondo gol ha fatto un errore l'arbitro, perché la palla è stata spostata da una mano e quindi, essendosi procurato un vantaggio, non esiste l'involontarietà, però ci sta. Quindi una volta erano gli stranieri quelli che arrivano da nazionali d'oltreoceano ad essere rientrati in ritardo, questa volta è colpa degli arbitri. Maurizio Sarri cerca giustamente qualche alibi. Fatto sta che il Napoli continua a prendere gol e continua a non convincere. Stefano da Macerata, 800 24 00 24, i temi sono tantissimi, calcistici e non. Tra poco andiamo su un'altra grande vittoria, cioè quella della Vuelta di Aru. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo intervenire riguardo alla partita ormai super chiacchierata del Milan e il derby da Milan-Inter. Ovviamente oggi si esalta la vittoria dell'Inter, ma se avesse vinto il Milan, che tipo di discorso avremmo fatto o avreste fatto? Perché voi siete tutori di una certa verità sportiva. In realtà l'Inter ha vinto senza fare assolutamente niente, poco meno del Milan, perché comunque anche il Milan non è che abbia fatto una grandissima partita, sì. Però è una squadra che sta vincendo unicamente su prodezze singole dei giocatori e basta, non c'è un è lentissima dietro, davanti levato qualche sprazzo tecnico del centravanti, bravo onestamente, almeno agonisticamente. Capire quale discorso si sarebbe fatto se avesse vinto il Milan. Stiamo facendo, Stefano, discorsi ipotetici, no? Questo è evidente. Però, ieri sera era una partita da pareggio, è stata una partita molto equilibrata. Io l'ho detto anche prima, a me nel primo tempo è piaciuto di più il Milan. Ho avuto la sensazione, guardandola alla televisione, che il Milan si sia disunito soprattutto al centrocampo, là dove ha i maggiori problemi. Dopo aver preso il gol di Guarin, che è vero, è uscito da un'azione strana ed estemporanea. Avesse pareggiato il Milan con Balotelli, probabilmente oggi faremmo gli stessi discorsi. Sono chiaramente due squadre in divenire, due squadre in cui già si può vedere qualcosa, ad esempio la grande fisicità dell'Inter, e questo è confermato. Un Inter che a me è sembrata migliore rispetto alle prime due uscite di campionato, certamente un Inter che si è completata nel mercato negli ultimi giorni. Quindi non possiamo parlare di nulla di diverso se non di una squadra in embrione, in una squadra però nella quale ci sono delle qualità. Quindi non so che tipo di discorsi avremmo fatto se avesse vinto il Milan, probabilmente più o meno gli stessi. Piero da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Piero, giusto o no fischiare la Juventus, se non ho sbagliato i conti, 96 giorni dopo una finale di Champions League e soprattutto due mesi dopo quella che non è una ristrutturazione ma una ricostruzione in piena regola? Non è la stessa squadra. Non è la stessa squadra, perfetto. Cambi tre giocatori fondamentali come il regista, il centravanti e il mediano. No, perché c'è già chi parla di pazienza finita. Direi che la pazienza non finisce mai, ovviamente. Io sono interista, ne so qualcosa. Le squadre vanno ricostruite, ci vuole del tempo. Certamente è molto indietro, non solo come punteggio ma anche come gioco. Ma tutte sono un po' cantiere, secondo me. La stessa Inter mi sembra che in difesa sia ancora tutta da registrare. Quella che mi pare meno cantiere di tutte le altre è la Roma. La Roma mi sembra più attrezzata fra tutte, ma più che altro è un progetto che insomma l'Inter mi sembra ancora molto da registrare nel campo della difesa, che francamente fa acqua da tutte le parti ad oggi. Sì. Non dimentichiamo che ieri mancava quello che è l'ago della bilancia, che dovrebbe essere l'ago della bilancia di difesa dell'Inter, cioè il giocatore di maggiore esperienza e qualità che si chiama Miranda e che era fuori da questa partita, tanto che Mancini si è inventato Medel centrale. Murillo ha avuto problemi nel primo tempo, nel secondo tempo secondo me ha giocato una gran gara. Dunque sono tutti cantieri aperti. Quello più avanti nei lavori è la Roma, ma semplicemente perché la Roma non ha ricostruito niente, la Roma ha aggiunto qualche giocatore su un progetto che già esisteva, quindi questo non può sorprendere più di tanto, io dico, Piero. Sì, su Immano si costruisce la storia nemmeno le partite di calcio. Bravo, certamente bravo. Poteva essere dopo 20 minuti 2-0 per il Milan e discutevamo un'altra partita, perché le occasioni ci sono state e le gaffe difensive elevate. Sì, poteva essere 1-1 alla fine del primo tempo, sì. Sì, sì, sì. No, quello che volevo dire è un particolare, ma visto che parliamo anche di particolari che fanno la storia e anche le partite, che forse è sfuggito di più. Quella spizzata di testa di Icardi, bellissima come gesto atletico, su cross da destra, con un gesto atletico, un raso terra di testa, che io francamente raramente si vede nei nostri campionati, mi ricorda il migliore Gigi Riva. Molto creativo, diciamo, molto una conclusione creativa. Molto creativa, sì. No, quella conclusione lì, se voi guardate bene, è stata deviata. Cioè, ho sentito anche Bonolis dire ha sbagliato la mira. Ci sono dell'inquadratura con la visione della porta, sì. Si vede nettamente che il difensore, mi sembra Zapata, ma non vorrei sbagliarmi, la devia con la coscia. Sì. Quella palla lì a due metri dalla porta, veloce in quel modo e spizzata in quel modo, avrebbe potuto creare più di un problema Diego Lopez. Sì, la sensazione di una leggera deviazione ce l'ho avuta anch'io, ma solo guardandola al terzo replay. Comunque, gran gesto di Icardi, ripeto, conclusione molto creativa. Icardi si sta riprendendo, è stato fuori a lungo per infortunio e credo sia un altro giocatore barometro di questa Inter, perché le qualità realizzative che ha lui ovviamente in quella squadra non le ha nessuno. Io voglio parlare adesso del re di Madrid. Fabio Aru, il cavaliere dei quattro mori, ha matato il toro, ha matato il Moulin Rouge. Riccardo, accompagnami Fabio, perché aio, Fabio Aru vince la Vuelta a España. Aio, alza le mani per favore, aio, aio, aio. Sì, quando non arrivi al traguardo non è mai detta. Io ho avuto anche oggi, come tutte le tappe, una grandissima squadra, dei grandissimi compagni. Questa vittoria l'hanno fatta loro. L'unica parola che posso dire è dirgli un grande grazie. Ho pensato a onorare questa Vuelta sino in fondo. Ho preso tante botte ieri, sia qua sul fianco che sul ginocchio. Anche al Giro quest'anno ho fatto molta fatica, ho avuto dei problemi fisici, ma non ho mai mollato, e forse questo mi ha aiutato a essere anche più forte nei momenti in cui non sei al massimo. A inizio tappa oggi non avevo delle buonissime sensazioni, però il tener duro e il mai mollare mi è servito oggi. Io ho una gran voglia di essere retorico e di dire che il re è entrato a Madrid con il mantello rosso. Il re però non è spagnolo, ma è nato a San Gavino, Monreale, e si chiama Fabio Aru. Ciao Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Io ormai faccio scuola non indovinando mezzo pronostico, che è mezzo, tanto che sono sul mercato per i contropronostici. Tu invece hai letto perfettamente la cronometro in cui Aru si è avvicinato a Dumoulin e poi l'attesa, il circoletto rosso per quell'ultima salita in cui Aru ha vinto il Giro di Spagna. Ti va bene, fare i pronostici è la cosa più difficile che ci sia, quindi bisogna avere anche un po' di fortuna, ma soprattutto bisogna capire e conoscere discretamente bene con chi hai a che fare, e devo dire che Fabio Aru è uno di quelli che ha fatto bene e ha una testa veramente insuperabile, perché quello che si mette in testa generalmente lui lo ottiene. Il giorno della cronometro, come ti ricorderai, addirittura io ero stato molto ottimista. Per qualche secondo pensavo che riuscisse anche a mantenere la maglia rossa e tutto si sarebbe risolto in maniera molto più facile. Invece per soli 3 secondi è andato sulle spalle di Dumoulin, però ero convinto che c'era terreno. Bisognava dare battaglia, perché c'erano ancora 3 tappe molto dure, in particolare la penultima, che era quella per dargli il colpo di grazia, mandarlo a tappeto con un KO. Però anche lì devo essere estremamente sincero, mi sono un attimo spaventato, perché il giorno prima Fabio era caduto, ha picchiato violentemente il ginocchio e lì l'avevo sentito la sera, non più anche lui sicurissimo, che mi diceva speriamo di passare bene la nottata, ecco, sì. Citare Edoardo. E invece è andata bene, perché alla fine un po' il ginocchio ha retto, in più il resto ce l'ha messo lui e la briscolona l'ha messa a Martinelli e Zanini, i tecnici della Stana, che hanno veramente organizzato a tavolino una tattica non stravolgente, perché hanno fatto una la classica cosa che andava fatta, quindi mandare nella fuga di mattina due corridori in supporto. Tenere Mikel Landa, il grande discusso, l'uomo dei grandi tradimenti, per quanto mi riguarda, difeso fin da subito e fin da sempre, perché era giusto lasciarli vincere quella tappa, era giusto lasciarli una giornata di libertà, perché poi avrebbe reso il doppio al fianco di Fabio, e così è andato. E dire che questa Vuelta, ricordiamocelo tutti, era iniziata nel peggiore dei modi, perché era cominciata con una caduta dove Paolo Tiralongo si era beccato 36 punti e se n'è andato a casa, ed era un po' il tutor di Fabio, perché si allena. Poi il pasticciaccio di Nibali, e sembrava una stagione mezza da buttare per il ciclismo italiano, e invece l'ha verniciata d'oro il ragazzo di Sardegna. Esattamente. È andata così. Torniamo a parlarne domani, se hai tempo, perché tanto questo è uno dei grandi argomenti del giorno e del momento, una delle grandi soddisfazioni che abbiamo ricevuto da questo weekend quasi molto magico. Volentieri, a domani. Ciao Piero Augusto Stagi, grazie. Ciao Carlo. Allora, voglio prima di Sandro da Verona raccontare una storiella che è meravigliosa, riguarda ancora il calcio, perché io voglio inserire in scaletta nei prossimi lunedì soprattutto un reparto tweet, perché i giocatori sono fantastici. Allora, protagonista Piqué, giocatore ben noto del Barcellona, ha dato un'occhiata ai risultati del campionato italiano e ha letto: Verona-Torino 2-2, Empoli-Napoli 2-2, Palermo-Carpi 2-2, Sassuolo-Atalanta 2-2. E allora Piqué ha preso il suo telefonino e ha twittato: vedo che dalle vostre parti il 2-2 va di moda. Se anche Lazio Udinese, che era posticipo di ieri alle 18, e Inter Milan finiscono 2-2, regalo una maglietta a tutti quelli che ritwittano questo tweet. L'hanno fatto in 79.000. Io direi che a Piqué è andata piuttosto bene, perché se fossero finite 2-2 anche quelle partite, al costo di circa 80 euro cada una, avrebbe dovuto comprare di tasca sua 79.000 magliette del Barcellona. Spesa approssimativa 6.320.000 euro. Sandro Verona, buongiorno. Ciao. Carlo. Ascolta, riguardo Piqué, mi sembra che sia diventato una tweet star, perché dopo il commento sul fatto che ha guardato la semifinale contro la Juve con la maglia di Buffon, mi sembra che si stia slanciando proprio su tweet star ce ne sono millanta, tanto che sta diventando il nuovo tweet star, dai. Sì, ma di tweet star ce ne sono millanta, Icardi compreso. Anzi, Icardi è uno dei soci fondatori di questo club, ma Balotelli stesso, ma tutti quanti, insomma, tutti quanti sono tweet star. Si fa presto a scrivere tic con il telefonino. Sarebbe meglio fare due chiacchiere di persona, che magari viene meglio, Sandro. Ascolta, una cosa veloce riguardo la Juve: sono un grosso tifoso della Juve, comunque fiducioso. E volevo dire che secondo me è chiaramente una fase di transizione questa, anche se Allegri dice di no, che nella Juve non esistono anni di transizione. È chiaro che se vendi Vidal, Tevez e tutti gli altri, la Juventus ha rifondato la squadra. Vidal, Tevez e Pirlo. Vidal, come Tevez. Chiese che dire che sono fuori, sono in chiese che dire a lungo dei genti, certo, è chiaro. Esatto. La Juventus, cosa, una riflessione sulla partita di domani. Secondo me ci va di lusso che domani troviamo il City in esterna, perché è l'unica partita che realmente possiamo perdere senza grossi traumi. Tra l'altro non gioca Agüero, esatto. Ma la notiziaccia è che, come detto, Marchisio, che è l'uomo barometro secondo me di questa Juventus, l'uomo della continuità, starà fuori ancora un mese. Adesso voglio farvi sentire le, da Misano, le voci di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. È un risultato che, pur, cioè, visto l'errore di Jorge, per il campionato è molto positivo, perché guadagnare 11 punti è una cosa fondamentale. Però dai, lascio un po' l'amaro in bocca, perché mi sarebbe piaciuto fare una bella gara, salire sul podio. Ero veloce sull'asciutto ed ero anche molto veloce sul bagnato, però in queste gare così mezze mezze non ce la faccio mai a fare la scelta giusta, e quindi anche oggi è andata così. E bueno, una decisione grande, no? Uno dei giorni questi che non desideri essere piloto. Però sono le gare, qualche volta hai fortuna, qualche volta sfortuna. La moto andava bene, l'unico che quella curva sempre, all'uguale che la curva 6, sempre un po' delicata, con pneumatici freddi, e non aveva la gomma calda per entrare a quella velocità. È stato il mio errore. Errori su errori. Io faccio per il tempo a salutare il mio amico Graziano Rossi. Ciao Graziano. Ciao. Gara umidiccia, gara difficile, Maracanà che si era trasferito a Misano per vedere magari Valentino vincere. Valentino a modo suo ha vinto, forse nella peggior gara dell'ultimo anno, posso dirlo? Ma la peggiore in che senso? Ma dal punto di vista della strategia, dal punto di vista della gestione. Ah beh, sai, è sempre facile dirlo dopo. Ah, chiaro. Mi ricollego un attimo a quello che diceva Guido Meda, che è abbastanza facile fare i progetti, le tattiche dalla sedia dell'ufficio, ma tu considera una gara dove piove e tu guidi una moto GP, no? Allora, tu sei in testa al campionato del mondo, devi fare una scelta che naturalmente non sia troppo rischiosa da farti perdere eventualmente tutto il bottino della gara, no? E non sai, tu sai che da qualche parte della pista ancora sta piovendo, sì. No? Non sai naturalmente cosa stanno facendo gli altri, vedi una tabella dai box che ti invita a fermarti. Però insomma non sei d'accordo, almeno fino a quando non ti accorgi che quelli che hanno cambiato le gomme stanno girando 10 secondi al giro più veloce, allora ti rendi conto che devi farlo anche tu. E la situazione è assolutamente ti immagini con... No, un casino. No, ma che la gara sia stata un terno al lotto, no, sia stata difficilissima, voglio, in dubbio. Voglio dire una cosa prima di tutto. Sì. Prima di tutto, quando c'è stato da guidare senza pensare alle tattiche, da guidare con il bagnato, Valentino ha girato anche un secondo e due più forte degli altri due. Certo. Li è andati a prendere e li ha passati. E questo mi sembra sia stato il momento più significativo della gara. C'era da guidare e basta, come fanno sempre loro. Valentino è stato decisamente il pilota più veloce in pista. Questo non c'è dubbio. Graziano, quanto contano adesso 23 punti? A quest'ora del mondiale quanto contano 23 punti di vantaggio? Ma secondo me contano poco, nel senso che guai lasciarsi confondere da 23 punti pensando che siano tanti e pensando che adesso sia più facile. Questo è un errore nel quale ho visto delle dichiarazioni che ha fatto Valentino. Credo che Valentino non cadrà in questo errore, perché 23 punti è come bisogna da adesso in avanti non pensarci nemmeno. Alle prossime due gare almeno, ma forse anche tre, forse anche quattro, partire sempre per cercare di fare meglio possibile e quindi attaccare. Certo. Non si può difendersi senza guardare la classifica. Senza guardare la classifica. Graziano, ti ringrazio, ti abbraccio. E a prestissimo. Buon pomeriggio, vi ringrazio molto. Ciao Graziano Rossi. Non si può difendersi con due avversari di questo no, livello. No, assolutamente. Con Marquez, che secondo me a questo punto farà l'arbitro del mondiale. Avremo tanto tempo e tante puntate per parlarne. Grazie a Giorgio De Luca, Pietro Lacorte, Giovanni Melchiori. Ci sentiamo domani dopo alle 2:00.